Letture di Radio 24. Siamo tutti convinti che le leggi italiane siano le più confuse del mondo. Ma anche se sembra impossibile, c'è chi sta peggio. La Gran Bretagna ha nominato molti anni fa una Law Commission che ha proprio il compito di individuare le leggi più assurde ancora in vigore nel regno di Elisabetta e di proporne l'abolizione. Ma il compito sembra superiore alle forze di qualunque essere umano. Uno studente di Cambridge, Christopher Sargent, ha così cercato di dare una mano alla Law Commission, provando a identificare le norme più strane che avrebbero urgentemente bisogno di essere cancellate, e ha prodotto un elenco di assurdità davvero strabiliante. Una delle leggi in vigore più disattese è sicuramente quella che vieta di ubriacarsi in un pub. Non si capisce dove altro lo si dovrebbe fare. Per strada è peggio e in casa propria è triste. E per arrestare i colpevoli durante il weekend non basterebbero tutti i poliziotti in servizio nel paese. Ma la legge è da sempre dura con chi beve troppo. Se si è ubriachi dal 1872 è vietato condurre macchine mosse da motori a vapore e solo chi è sobrio può portare al pascolo le mucche. Sulle spiagge britanniche si arenano spesso balene e una legge ancora in vigore proibisce di toccarle. Appartengono al sovrano e bisognerebbe consegnarne la testa al re e la coda alla regina. Ma oggi, quando un cetaceo muore su una spiaggia, nessuno telefona a Buckingham Palace perché se lo vengano a prendere. Violando la legge, la gente chiama la polizia o il museo di storia naturale. Anche con i cigni bisogna fare attenzione. Pure loro appartengono tutti al sovrano ed è vietato mangiarli. L'elenco delle leggi assurde rimaste in vigore sembra infinito. È vietato importare patate dalla Polonia senza uno specifico permesso. Non si può morire in Parlamento, perché il decesso sarebbe esaminato dal Royal Coroner e il defunto avrebbe diritto a un funerale statale. A Westminster non si può nemmeno entrare con un'armatura. Da quando, nel 1313, il conte Lancaster vi girava armato e minaccioso e fu necessaria una legge per renderlo inoffensivo. Da molto tempo inglesi, gallesi e scozzesi non si fanno più la guerra, ma in base a una norma che nessuno ha abrogato, se si incontrasse nel centro della città di York uno scozzese armato di arco e frecce, lo si potrebbe uccidere impunemente. Anche a Chester è permesso uccidere se si incontra un gallese. Si rischia invece ancora un'ammenda o qualche giorno di carcere se si incolla su una busta o un francobollo con la testa della regina rivolta verso il basso. A Londra è vietato battere i tappeti dopo le 8 del mattino o stendere fili attraverso le strade per asciugare il bucato. Ma le leggi più strane sono rimaste in vigore in Scozia. Tutti gli scozzesi sono ad esempio obbligati ad aprire la loro casa se qualche passante ha bisogno di andare in bagno. Ma anche nei casi più impellenti è sconsigliato provarci. E poi, ai bambini fino a 10 anni, è tuttora vietato guardare un manichino privo di vestiti. I genitori hanno la responsabilità di impedire ai loro figli visioni così indecenti, anche a costo di tenerli chiusi in una stanza con il loro tablet. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Vittorio Sabadin, «Vietato ubriacarsi nei pub e morire in Parlamento», dalla Stampa del 12 settembre. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10 e mezza, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24, di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì alle 9, su Radio 24. Letture di Radio 24. Si è conclusa lunedì scorso la festa del sacrificio, detta anche festa dello sgozzamento, durante la quale i fedeli islamici sgozzano un animale rievocando il sacrificio di Abramo che, per dimostrare la sua obbedienza a Dio, aveva obbedito alla richiesta di sacrificare suo figlio. Per ricompensarlo, all'ultimo momento, Dio gli concesse poi di sacrificare un montone al posto del figlio. La festa dello sgozzamento ha scatenato polemiche da parte degli animalisti e non sono mancate le denunce da parte di chi è stato svegliato nel cuore della notte dalle urla degli animali sgozzati dai vicini di casa, che poi ne avevano appeso le carcasse alle finestre. Questa cerimonia quest'anno ha ricevuto in Italia anche la benedizione delle istituzioni, come scrive Gianluca Veneziani sul Libero, che prosegue. Il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, ha fatto gli auguri per la festa alla comunità islamica locale e il comune di Bari ha voluto concedere il patrocinio e finanche uno spazio pubblico, lo Stadio della Vittoria, per celebrare l'evento. Ma a prescindere dall'accondiscendenza delle nostre amministrazioni, ennesimo sintomo della sottomissione all'ideologia islamica, è la pratica in sé a prestarsi ad alcune obiezioni, in primo luogo di natura etico-animalista. Durante il rito le bestie vengono infatti sgozzate a freddo, senza preventivo stordimento, e attraverso una macellazione fai da te, proibita dalle nostre leggi, che prevede il progressivo dissanguamento dell'animale. Il sangue è ritenuto impuro ed è proibito mangiarne. È un'agonia che dura fino a 3 ore. Un metodo brutale che ha scatenato le ire degli animalisti nostrani, come l'onorevole forzista Michela Vittoria Brambilla, che lo ha definito uno spettacolo indegno di un paese civile da bandire finalmente dalle nostre strade. La stessa AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha denunciato l'uccisione durante il rito, solo in Italia, di oltre 600.000 animali, tra capre, pecore, montoni e bovini vari, e ha chiesto che d'ora in poi la macellazione rituale sia vietata e tutti coloro che macellano nelle loro case siano segnalati alle forze dell'ordine. Ma al di là dell'evidente aspetto truculento, la macellazione sacra pone seri problemi di natura igienico-sanitaria. In Francia il governo è stato costretto a prendere provvedimenti per evitare che le carcasse degli animali appena uccisi venissero lasciate marcire nelle strade e impattassero di conseguenza sulla salute dei passanti. Dietro questo rito, poi, in una fase storica come la nostra, si celano messaggi subliminali preoccupanti. La decapitazione a sangue freddo di un animale evoca inevitabilmente lo sgozzamento cui sono soggetti gli infedeli, le vittime innocenti dello Stato islamico. Non a caso, come fa sapere il Mail Online, l'ISIS in Siria ha celebrato a modo suo la festa del sacrificio, appendendo a testa in giù ai ganci di un mattatoio decine di prigionieri prima di sgozzarli. L'ennesima conferma di chi siano in realtà le vere bestie. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Gianluca Veneziani, Un rito che fa capire chi sono le bestie, da Libero del 14 settembre. Da qualche anno a questa parte, la libertà di espressione concessa alla letteratura viene sempre di più ristretta dai diktat imposti dal politicamente corretto e dall'obbligo di rispetto per le diversità culturali. Ma c'è chi ha iniziato a protestare contro quella che viene definita appropriazione culturale, come racconta Giulio Meotti in un corsivo pubblicato sul Foglio. In un saggio del 1988, scrive Meotti, la futura First Lady Michelle Obama accusava di razzismo il re del legal thriller, Scott Turow, perché perpetuava l'immagine di un uomo bianco dominatore che trae piacere a umiliare. Da allora, la paranoia razziale ha infestato e atterrito la letteratura. La scrittrice americana Lionel Shriver ci ha messo del suo per scioccare il pubblico del Brisbane Writer Festival, rinomata kermesse letteraria australiana. È salita sul palco, dove ha tenuto il discorso di apertura, sfoggiando il sombrero proibito nei campus dell'East Coast. Voleva protestare contro la moda che infesta la letteratura contemporanea. Si chiama appropriazione culturale. Sembra una malattia. È invece il dogma che impone a scrittori e artisti di trattare coi guanti bianchi le minoranze etnico-sessuali. Così la popstar Iggy Azalea è tacciata di crimini culturali per aver imitato i rapper afroamericani. O il Museum of Fine Arts di Boston è accusato di razzismo per aver invitato il pubblico a provare il kimono indossato dalla moglie di Claude Monet, Camille, nel dipinto La Japonaise. Il museo, allora, si è limitato a far osservare il kimono. Ma non sazi, i poliziotti culturali, così definiti sul Washington Post, hanno allora accusato il museo di sguardo orientalista. Lionel Shriver si è vista censurare il discorso sul sito del festival, bacchettato ufficialmente dagli organizzatori. avvicinata da manifestanti molesti e boicottata dagli scrittori presenti in sala. La Shriver era già stata attaccata per il suo nuovo libro, The Mandible. Il Washington Post ha bollato come razzista il romanzo, una distopia sulla bancarotta dell'America nel 2029. Dopo il discorso, la Shriver è stata aggredita da un uomo che le ha urlato «Come si permette di venire nel mio paese a offendere le minoranze?». L'organizzatrice del festival, Julie Beveridge, ha biasimato la Shriver in una sessione di repliche in cui un manipolo di scrittori hanno attaccato l'impertinente americana di turno. Yasmin Abdel Majed, romanziera musulmana, sul Guardian ha spiegato perché se n'è andata dal festival dopo aver udito le prime parole della Shriver. «Odio deludervi, gente, però non parlerò di comunità e appartenenza, ma di romanzo e identità», recitavano dunque quelle prime righe. «Il tipo di narrativa che ci è permesso rischia di diventare sempre più circoscritta. Oggi non avremmo Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, né i romanzi di Graham Greene. E ancora, mi auguro che il concetto di appropriazione culturale sia una moda passeggera, sostenuti niente meno che da Lena Dunham, gli studenti dell'Oberlin College in Ohio hanno protestato per la presenza di cibo culturalmente appropriato, come il sushi, nella loro sala da pranzo. Allora un nativo del North Carolina dovrebbe vietare il barbecue ai thailandesi». La Shriver ha parlato di tendenza voyeuristica, cleptomaniacale e presuntuosa. La scrittrice ha anche detto che essere asiatico non è un'identità, essere gay non è un'identità, essere sordi, ciechi o in carrozzina non è un'identità, né lo è essere economicamente svantaggiati. Non basterà l'accusa di appropriazione culturale per archiviare i dead white males, i grandi scrittori maschi bianchi e defunti. O censureranno anche i dipinti di Picasso e Matisse ispirati dall'Africa. E perché non le opere orientaliste di Puccini come Madama Butterfly e Turandot? Perché, come ha detto di recente Harvey Mansfield a Harvard, abbiamo assistito a questa strana evoluzione. La diversità prima è diventata multicultura, poi monocultura, infine analfabetismo. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Giulio Meotti, una scrittrice contro gli analfabeti della diversità culturale. E al Festival Letterario un sombrero scatena la paranoia razziale. Dal Foglio del 14 settembre. Tra le cose che in Cina era proibito fare, c'era anche questa. Cercare su internet il nome dell'attuale leader nordcoreano, accompagnato da un soprannome poco nobile con cui è noto tra gli internauti del Regno di Mezzo. Ora invece si può. Il regime di Pechino ha infatti sbloccato su Baidu, il Google locale, la ricerca dell'espressione Kim Jong-un, maiale di terza generazione. Secondo gli esperti è una conseguenza del fastidio che in Cina si prova ultimamente verso le continue provocazioni del regime di Pyongyang, che per Pechino è ormai un alleato sempre più difficile da difendere anche all'ONU. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Daniele Castellani Fertilli, Kim Jong un maiale. In Cina ora si può dire. Dal venerdì di Repubblica del 9 settembre.